La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Da noi certi killer di Stato si sono velocemente trasformati in infami di Stato, che uccidono sommariamente su richiesta. I nostri killer di Stato non hanno ancora eliminato i numerosi capi banda e capi guerrieri ceceni. In compenso si sono affrettati a bruciare i corpi di una donna incinta e di altri civili innocenti e far esplodere un camion con a bordo i migliori ragazzi del distretto di Shatoi. In Cecenia siamo caduti in un buco nero. Abbiamo allevato una tale quantità di assassini cinici da coprire l'intero fabbisogno di killer a pagamento del pianeta. Mi assumo la responsabilità delle mie parole. Queste erano appunto le parole di Anna Politkovskaja, la giornalista russa uccisa a Mosca proprio per aver denunciato i crimini dell'esercito russo contro i ceceni, uccisa appunto a Mosca mentre tornava dal fare la spesa. Il suo processo si è svolto, questo processo però ha detto che sono tutti innocenti. Per parlare, per ricordare Anna Politkovskaja, abbiamo con noi Anna Agliati, vicepresidente dell'associazione Anna Evviva. Ecco, che donna era Anna Politkovskaja? Fu senza dubbio la principale testimone del secondo conflitto ceceno. Come Anna Politkovskaja stessa affermava, il suo problema principale era proprio quello di vedere tutto, le cose belle e le cose brutte. E attraverso le sue parole, attraverso le sue testimonianze, i suoi racconti, possiamo senz'altro dire che il tema centrale resta sempre e comunque la distanza incolmabile tra il popolo ceceno oppresso e i governanti politicanti. Quindi da un lato sempre gli oppressori e dall'altro gli oppressi. Nonostante quindi alla base di ogni sua testimonianza ci sia questo conflitto, si capisce poi che nelle intercapedini di questo conflitto scaturiscono altri tipi di guerre, altri tipi di opposizioni. L'opposizione millenaria, ad esempio, tra i russi e i ceceni, l'opposizione tra un universo maschile e un universo femminile, l'opposizione tra i grandi generali dell'esercito russo e quelli che Anna ha chiamato più volte i soldatini. Anna parla di guerre fratricide, di guerre di indipendenza, parla sostanzialmente di odio che genera altro odio fino a produrre in Russia, come in Cecenia, un clima che Anna spesso definisce di tale e desolante decadimento umano, per cui la situazione sfugge talmente dal controllo che la priorità di molti diventa a quel punto impugnare le armi senza più nemmeno identificare il bersaglio. Prima di chiudere, perché abbiamo pochissimi minuti ancora, sì, Io voglio chiedere proprio a Anna Agliati, vicepresidente dell'associazione Anna Evviva, che cosa si propone la vostra associazione, qual è il vostro scopo, perché volete ricordare sempre questa incredibile giornalista? Innanzitutto Anna Viva possiede un sito internet www.annaviva.com che invito tutti i radioascoltatori a visitare, ad apportare qualsiasi tipo di contributo. Siamo sempre molto ben accoglienti di fronte a nuove proposte e cerchiamo il più possibile di farci motori, organizzatori o anche semplicemente sostenitori di tutte quelle attività che hanno come tema e filo conduttore la difesa dei diritti umani nell'est Europa e appunto l'affermazione dei diritti e delle libertà inviolabili dell'uomo. Ciascuno con i mezzi che ha a disposizione, ciascuno come può, cerchiamo di attingere il più possibile da giornali locali in lingua russa e tradurre quanti più articoli possiamo in italiano e in inglese. E abbiamo recentemente, per la precisione, 5 maggio di quest'anno, siamo riusciti finalmente a piantare un albero in onore di Anna Politkovskaja all'interno del Giardino dei Giusti di Milano. In quell'occasione è stata nostra ospite anche la figlia di Anna Politkovskaja, Vera Politkovskaja, Abbiamo intrattenuto una conversazione molto piacevole anche a proposito del processo, come si accennava all'inizio. Ecco, che come sta andando il processo, l'ultima cosa? Sì, ecco, a proposito del processo, come lei giustamente diceva, si è concluso nel febbraio di quest'anno con l'assoluzione dei quattro imputati. Parlando con Vera di questo argomento, lei ha quasi sorriso, un sorriso ovviamente anche un po' amaro, anche un po' sconfitta, e mi ha detto questa cosa. Un giorno, quando mia madre era ancora viva, mi disse: Vera, se qualcuno mai mi ucciderà, sappi che questo qualcuno siede al Cremlino. Altre parole per descrivere anche com'era Anna Politkovskaja. Ricordiamo, per chi fosse interessato, invece, per sostenere la democrazia nell'est europeo, l'associazione Anna Evviva. La quota rosa. Il Parlamento deve fare leggi non orientate da precetti di tipo religioso. Il dibattito sulla bioetica è complesso e mi auguro che venga affrontato senza gli eccessi propagandistici che ci sono da entrambe le parti, perché queste sono questioni nelle quali il dubbio prevale sulle certezze. Il dubbio prevale sulle certezze. A parlare non è il principe di Danimarca Amleto, ma bensì il presidente della Camera Gianfranco Fini. Le leggi non seguono la religione. Il presidente della Camera ha rilanciato il tema della laicità dello Stato. Il centrodestra si oppone e poi Monsignor Greccia, quindi la Chiesa, dice: non taceremo. È di nuovo quindi scontro sulla bioetica, ma a questo punto non è uno scontro tra laici e cattolici, i laici nel centrosinistra e i cattolici nel centrodestra. Ci sembra che questo scontro sia sempre comunque trasversale. Per parlare di questo e per parlare anche di come si contrappone la laicissima Spagna di Zapatero, abbiamo con noi la senatrice Laura Bianconi, PDL. Buongiorno. Buongiorno a voi. E che sentiremo un po' disturbata perché è a un convegno. L'onorevole Amalia Schirru, PD. Buongiorno. Buongiorno. E la dottoressa Assuntina Morresi, docente all'Università di Perugia e membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno. Allora, buongiorno. Partiamo subito dalla senatrice Laura Bianconi. Senatrice Laura Bianconi, il presidente della Camera vi pungola sui temi della laicità dello Stato. Voi al Senato avete approvato il biotestamento con grandissimo contrasto del Partito Democratico, perché è passato il fatto che il medico potrà non attenersi alla dichiarazione anticipata di trattamento del paziente, che rende un po' nullo questo testamento biologico. Il presidente della Camera Gianfranco Fini dice: attenzione, separiamo Stato e Chiesa. Insomma, cosa sta succedendo all'interno del centrodestra? Non è un blocco monolitico cattolico? Guardi, intanto non c'è più il blocco monolitico di un tempo della cosiddetta balena bianca, e questo è sicuramente un grande arricchimento. Io sono profondamente cattolica, sono quasi una persona che porta a termine le sue considerazioni alla luce anche di una fede che mi è stata donata, ma certamente sono nelle istituzioni molto laica e mi muovo da laica. Direi che il problema della Chiesa è un patrimonio personale che diventa poi anche una visione sull'uomo e sulla società, e attraverso questa visione ovviamente ognuno di noi è portatore del suo credo, ma le istituzioni sono laiche e noi serviamo tutto il popolo, che non è soltanto il popolo laico e cattolico, ma è il popolo italiano con tutte le sue componenti. Quindi questo dibattito sulla laicità, secondo me, è un po' troppo stiracchiato. Non crede che il presidente della Camera Gianfranco Fini stia facendo un po' il gioco del Partito Democratico? No, guardi, assolutamente. Io conosco l'integrità del presidente Fini, tra l'altro lui adesso abbraccia questa operazione del dubbio, che per carità nelle istituzioni è sempre d'obbligo. Devo rammentare che qualche tempo fa la pensava un pochino diversamente, però da questo punto di vista qui non credo assolutamente a un gioco delle parti o a un vantaggio politico o a un vantaggio personale. Conosco troppo Gianfranco Fini per non ritenere una persona seria. Onorevole Amalia Schirru del Partito Democratico, abbiamo sentito le parole della senatrice Laura Bianconi, rassicura, dice no, il Presidente della Camera Gianfranco Fini non sta dando insomma un aiuto al Partito Democratico, non sta dando una bordata al centrodestra. Ma allora chi è laico e chi è cattolico in questo paese? Perché dagli schieramenti non si capisce più. Dario Franceschini è un cattolico praticante, anche se professa però la laicità. Da voi c'è l'onorevole Binetti, che invece è una cattolica molto intransigente, però Paola Concia dall'altra parte invece è assolutamente per i diritti dei gay. Insomma, questo Partito Democratico ha un'anima laica o un'anima cattolica? Noi non lo riusciamo a capire. Tanto il Partito Democratico ha un'anima, l'anima è laica in modo assoluto. Poi all'interno del partito ci sono più o meno posizioni dove si esprime la propria formazione, la propria esperienza di vita, che è anche quella di carattere religioso, come l'onorevole Binetti e tanti altri che, pur essendo cattolici, anche praticanti, hanno una posizione più di ascolto e più di rispetto di quelli che sono i principi che regolano la vita delle persone. Il presidente Fini, intanto, a mio parere, sta facendo semplicemente, estendendo al meglio il ruolo di presidente della Camera, richiamando tutta l'istituzione, quindi tutti i singoli parlamentari, a far sì che quando si fanno le leggi ci sia punto di riferimento la Costituzione, dove appunto è affermata la distinzione dei ruoli e delle funzioni tra Stato e Chiesa. Presidente Fini ha anche fatto il secondo monito. Il secondo monito era sull'immigrazione. Ci sono stati molte discussioni riguardo al disegno di legge sicurezza passato alla Camera, tra cui il fatto che i centri di identificazione ed espulsione siano anche dei lager, ammesso dallo stesso Presidente del Consiglio pochissimi giorni fa. E soprattutto ci sono state anche delle iniziative del Partito Democratico, delle onorevoli del Partito Democratico, su questa norma che praticamente vieterebbe il riconoscimento dei figli alle madri clandestine, cioè questi bambini con i genitori fantasma. Voi del Partito Democratico avete agito in questo senso, cosa avete fatto? Beh, noi intanto abbiamo detto in modo molto concreto di rispettare quelli che sono i diritti umani delle persone, che sono sanciti anche dalla Convenzione dell'ONU, oltre che dalla nostra Costituzione italiana, e abbiamo nello stesso tempo chiesto delle misure concrete per il rispetto della vita delle persone, al di là del colore politico, al di là dell'età, al di là delle motivazioni anche. Allora, noi andiamo a vedere che cosa succede all'estero, perché questo appello alla laicità del Presidente della Camera Gianfranco Fini viene anche dopo la nuova legge sull'aborto del Premier spagnolo Zapatero, che ricordiamo è stato anche colui che ha dato il via libera in Spagna ai matrimoni gay e quindi con persone dello stesso sesso. Basterà aver compiuto 16 anni per poter decidere da sole se entro la 14ª settimana di gestazione si vuole un figlio oppure no, quindi addirittura l'aborto per le minorenni senza il consenso dei genitori. Ovviamente la Chiesa, che è la Chiesa cattolica sia in Italia che in Spagna, si è schierata apertamente contro questa legge Zapatero, ma il Premier spagnolo va avanti e non viene interrotto dalla Chiesa cattolica. Allora, noi vogliamo chiedere intanto alla dottoressa Assuntina Morresi, docente all'Università di Perugia e membro del Comitato Nazionale di Bioetica, qual è la differenza tra la pillola RU486, che è la pillola abortiva, quindi che Zapatero avrebbe dato anche alle ragazze che hanno compiuto i 16 anni, e qual è invece la differenza con la pillola del giorno dopo, perché noi ci confondiamo un pochettino. Allora, proprio per dare un'informazione in più alle nostre radioascoltatrici, se ci dice qual è la differenza intanto, e poi se ci dice se questa famosa pillola abortiva RU486 è in sperimentazione in Italia e dove. Buongiorno, sì, la pillola abortiva RU486, come dice il nome, è una pillola che induce l'aborto, quindi si assume con una gravidanza in atto certificata. Questa pillola si può assumere solo entro i primi 2 mesi di gravidanza e in Italia non è in vendita. C'è stata una sperimentazione conclusa dalla magistratura a Torino, perché le donne poi abortivano, molte donne hanno abortito fuori dalla clinica in cui avrebbero invece dovuto abortire, quindi violando la legge 194, e attualmente c'è una negoziazione sul prezzo all'AIFA, all'ente di farmacovigilanza italiano. Sempre ultimamente però abbiamo visto sui giornali che il Ministero della Salute ha chiesto nuovi dati sulla pillola abortiva alla ditta che la produce, li ha avuti, questi dati sono coperti chiaramente dalle leggi che proteggono i dati sulla farmacovigilanza finché gli enti non li rendono pubblici, sono stati comunque trasmessi all'AIFA. Il 10 giugno si riunirà il CTS, la Commissione Tecnico-Scientifica, che deciderà se e come valutare questi nuovi dati, quindi questo per quello che riguarda la RU486. In alcune regioni in Italia si fa un'importazione diretta della pillola e viene somministrata, ma è una procedura particolare e il farmaco di per sé non è commercializzato direttamente in Italia. Questo che cosa per quello che riguarda... quindi bisogna andare in ospedale per avere il farmaco? No, si può andare anche in farmacia. Solo in alcune, in alcune regioni italiane, in alcuni ospedali di queste regioni si dà in ospedale. La quota rosa. Tra l'Italia e la Spagna potremmo chiamare questa trasmissione, proprio perché ci stiamo occupando di quello che accade in Spagna, dove Zapatero ha proposto l'aborto per le ragazze che hanno compiuto 16 anni entro le 14 settimane di gestazione, e invece Fini in Italia che dice le leggi non seguono la religione, ma ci sono dure critiche dalla Chiesa e dal Popolo della Libertà. Abbiamo sentito la dottoressa Assuntina Morresi che ci stava spiegando che la pillola RU486, la pillola abortiva, è in sperimentazione solo in alcuni ospedali d'Italia, non si può andare in farmacia e molto spesso quindi l'aborto nella maggior parte dei casi è un intervento chirurgico ancora oggi in Italia, giusto? Esattamente, quasi del tutto, nel 99% dei casi. Poi c'è però, e noi lo vogliamo dire alle nostre radioascoltatrici più giovani, anche la pillola del giorno dopo, cioè la pillola anticoncezionale, e poi c'è la pillola del giorno dopo, che va presa entro 72 ore dal rapporto che si può considerare rischioso di gravidanza. Sì, dunque la pillola del giorno dopo è una pillola, è un concentrato di ormoni che si trovano nelle pillole anticoncezionali. Per questo viene detto di prenderla con attenzione raramente, perché è veramente una bomba ormonale. Non si conosce il meccanismo con cui agisce. Può impedire l'ovulazione, cioè quindi può impedire il concepimento, oppure può anche impedire che l'embrione attecchisca in utero. Quindi non si sa ancora quale dei due meccanismi sia prevalente nel corpo della donna. Questo è il motivo per cui ci sono problemi etici, perché potrebbe dare luogo anche alla distruzione di un embrione. Questa pillola si prende quando una donna non sa, perché non può sapere se è rimasta incinta. Ma ha mai avuto poi pazienti che avevano preso questa pillola e questa pillola non ha fatto effetto? Sì, cioè non è sicuro. tra l'altro non è un metodo sicurissimo. E allora noi torniamo a ribadire che è sempre meglio prendere una pillola anticoncezionale prima o usare un preservativo prima, che oltretutto ci protegge anche da tante malattie, invece che poi dover rimediare dopo, giusto dottoressa? La prevenzione è la prima arma. Soprattutto la prevenzione, e io accompagnerei alla parola responsabilità, perché a mio avviso il messaggio negativo della pillola del giorno dopo, che dovrebbe essere condiviso indipendentemente dal problema etico, che non è piccolo però, è che non si può dare ai nostri ragazzi l'idea che si può fare qualsiasi cosa tanto dopo c'è un rimedio. Questa è una cosa che di solito nella vita non succede. Uno deve avere responsabilità, e poi questa responsabilità si esercita a seconda delle proprie credenze, del proprio pensiero, delle proprie tradizioni, del proprio credo. Però io soprattutto direi responsabilità nel comportamento, per tutto, ripeto, che poi si esercita, chi crede in un certo modo si comporterà in un certo modo, chi ne crede in un altro si comporta in un altro, per alcuni responsabilità vuol dire astinenza, per altri vorrà dire contraccezione, ma responsabilità credo sia la parola più giusta. Lei come medico si è trovata a dover gestire alle volte un problema tra la salute della paziente o del paziente e la sua etica? Io sono chimico, non sono medico, sono un chimico. Quello che quindi non ho rapporto diretto con i pazienti, in quanto chimico conosco i meccanismi e in quanto bioticista mi sono trovata più volte a discutere nel bel mezzo di queste situazioni, e devo dire che a volte ci si trova di fronte a gente che pensa veramente che per qualsiasi cosa si faccia, non è tanto un problema di salute, per qualsiasi cosa si faccia c'è sempre un rimedio. Per questo io dico attenzione, non diamo facili messaggi, messaggi per cui si esce facilmente da qualsiasi situazione. Il problema visto che si parlava di Spagna, del fatto che in Spagna la pillola del giorno dopo è diventata medicina da banco, cioè si trova accanto alle aspirine e ai cerotti, secondo me è un problema innanzitutto educativo, perché questo significa che chiunque può pensare che qualsiasi sia il proprio comportamento, tanto poi si può tornare indietro, ma ripeto, non solo nel settore, nel campo dell'affettività e della sessualità, ma nella vita in generale non è mai così. Poi ha delle controindicazioni questa pillola, cioè non è che è una passeggiata, anche chi la sostiene come uso chiede che venga presa solo raramente. Ricordo che la ricetta in Italia, non ripetibile, è stata chiesta dal ministro Umberto Veronesi, cioè la pillola del giorno dopo è stata commercializzata in Italia quando era ministro Umberto Veronesi, che sappiamo tutti non essere su posizioni pro-life, ma essendo un medico, conoscendo la questione, sotto il suo ministero è stata chiesta la ricetta non ripetibile, perché anche per chi non si pone il problema etico della distruzione dell'embrione c'è comunque un problema medico del fatto che bombe ormonali non possono essere prese con frequenza, soprattutto da persone così giovani. Ricordiamo anche che la pillola, anche anticoncezionale, non protegge dalle malattie sessualmente trasmettibili, e che quindi sempre il miglior metodo per prevenire il diffondersi dell'AIDS, che poi è la malattia che può provocare, appunto, la malattia più grave, che può provocare addirittura la morte, è sempre l'uso del preservativo, che noi continuiamo a pubblicizzare per i giovani. Appunto, come lei dice, sì, c'è l'astinenza, certo la Chiesa parla di astinenza, noi siamo un po' più realisti e diciamo però anche il preservativo va bene, ci accontentiamo. Senatrice Laura Bianconi, PDL. Allora, abbiamo sentito, ci sono molti contrasti qui, abbiamo sentito che cos'è sta succedendo con la pillola abortiva, la pillola invece del giorno dopo. Volevamo fare una piccola finestra informativa per le nostre radioascoltatrici, però intanto le chiedo, allora, c'è stata questa approvazione alla Camera del disegno di legge sicurezza dove le madri clandestine non potranno riconoscere i loro figli. Allora, voi avete fatto una battaglia per Luana Englaro, per proteggere la vita dall'inizio alla fine. Ecco, non c'è un po' di contrasto nelle norme che vengono approvate dalla maggioranza, anche quella dei respingimenti? Ricordiamo che il monito di Fini riguardava anche l'immigrazione. Ma intanto la battaglia che stiamo facendo è contro la clandestinità. quindi è un altro comparto e siamo assolutamente in linea con l'Europa. Il governo dell'Europa nel 2008 fece una direttiva dicendo espressamente che l'Europa non poteva diventare il ventre molle, che i respingimenti dovevano essere fatti verso i paesi da quali gli immigrati clandestini ritornavano, grande attenzione per i rifugiati politici e grande sostentamento e parità di diritti e di doveri per i regolari, per cui anche il fatto che le madri possono riconoscere i loro figli. Quindi è un battage pubblicitario che veramente ogni tanto esula dai fatti concreti che si stanno facendo. Anche la Chiesa si è schierata contro il governo. Ma guardi, la Chiesa giustamente, a proposito del fatto dei laici e cattolici, le ripeto, la Chiesa fa bene a sollevare tutti i suoi intendimenti, tutti i suoi principi, tutte le sue banalità, e su questo poi i laici e i cattolici che siedono in Parlamento si confrontano molto laicamente. Quindi le dico che noi siamo in Europa, siamo assolutamente dentro le direttive europee, le persone che sono state salvate in acque non territoriali sono state riportate, così come dice tra l'altro la norma europea, nel porto più sicuro, e in quel momento il porto più sicuro era Tripoli. Quindi io rovescerei un attimo la situazione, tra l'altro in Europa c'è la norma della lotta alla clandestinità, perché noi abbiamo desiderio di integrare tutti quanti, ma di non avere zone di ombra su nessuna situazione. Poi possiamo metterci d'accordo sugli aiuti ai paesi di questi sventurati, di questi che tentano di ritornare qua, possiamo fare una lotta furibonda, feroce contro quelli che sfruttano queste persone per fini criminali e per fini di prostituzione. Però su questo l'Italia è molto forte, molto decisa, ma soprattutto molto europea. Ci deve dire che cosa pensa di questa appunto battaglia verso la laicità totale del primo ministro spagnolo Zapatero? Esattamente, no, su questo io sono preoccupata e abbastanza scandalizzata, preoccupata perché normalmente quando si comincia su questo venticello che è un cerchio che si chiude, che brevemente descriverò, poi presto o tardi arriva anche nelle nostre frontiere, quindi a casa nostra. È scandalizzata perché qui c'è un progetto assolutamente contro la vita. Siamo partiti dal rendere libera la prescrizione, quindi anzi la vendita della pillola del giorno dopo. Io condivido pienamente le considerazioni che faceva la professoressa Morrese, con il rischio che educativamente noi diciamo alle minorenni: non preoccupatevi, avete il mal di testa, vi prendete una pillola, pensate di essere incinta, vi prendete una pillola. Quindi realizzazione straordinaria di quello che è l'atto sessuale e della responsabilità, quindi un pessimo messaggio educativo. Allora, l'onorevole Amalia Schirru, PD, insomma, fronte laico, fronte cattolico, il fronte italiano dice, almeno le nostre interlocutrici, bisogna fare una battaglia prima. Dare l'aborto a delle ragazzine di 16 anni è diseducativo. Dico che bisogna prima di tutto dare una giusta informazione, perché anche questa confusione che si fa tra la pillola del giorno dopo e la pillola abortiva, si tratta di chiarire meglio. E quindi ecco, la cosa che ritengo importante è prima di tutto guardare in faccia la realtà, che è quella di riconoscere che la sessualità oggi è molto giovane, inizia molto precocemente, e per acquisire quella responsabilità di cui parlava la dottoressa, che io condivido, che significa dare loro la possibilità da subito di avere giusta informazione, giusta conoscenza, proprio perché poi si abbiano delle scelte autonome anche sulla propria sessualità e sulle proprie decisioni che comportano. Insomma, che comportano. Per chiudere, allora, il problema è questo. Io guardate, penso che il parere dato per esempio dalla commissione del Comitato Nazionale di Bioetica dovrebbe, ecco, misurarsi intorno a questi temi nel pensare a misure, ripeto, di informazione ai cittadini e nello stesso tempo anche aiutare a costruire una nuova cultura anche da parte del settore sanitario intorno a questi temi o i temi che comunque riguardano la vita delle persone. Allora, noi dobbiamo chiudere, ringraziamo Laura Bianconi, Amalia Schirru e Assuntina Morresi. La quota rosa. E in questa parte, ultima parte della quota rosa, ci occupiamo di una figura femminile mitologica. Ci occupiamo di Medea, andiamo a teatro, ma non andiamo a teatro al chiuso, noi andiamo al Teatro Greco di Siracusa, dove fino al 21 giugno è in scena appunto Medea con Elisabetta Pozzi, alla quale vogliamo subito chiedere ma che cosa vuol dire recitare Medea? Ah beh, direi che è il personaggio a cui si pensa da quando si ha 20 anni, poi bisogna aspettare magari di averne qualcuno in più per poter interpretare, anche perché esige una grande competenza proprio tecnica di in più rappresentarlo al Teatro Greco di Siracusa necessita di ancora più esperienza, oltre a una maturazione anche di donna ovviamente, quindi è uno scoglio e poi però nei momenti in cui si riesce a portarla in scena e avere anche successo come sta succedendo qui, bene, è una gratificazione che forse non ha pari. Voi recitate come nell'antico teatro greco con le maschere oppure siete aiutate dai microfoni, perché poi le maschere avevano questo effetto di megafono all'epoca, no? No, non servivano solo per quello, anzi, diciamo che servivano più che altro per dare connotati ai personaggi più che amplificare la voce. Comunque qui a Siracusa, come ormai in tanti altri teatri cosiddetti di pietra, antichi, è quasi sempre necessario usare un'amplificazione, più che altro perché ormai il livello di percezione delle persone è completamente cambiato, ormai siamo un po' tutti come abituati come siamo dentro ai rumori, poi non ci sono più proprio le caratteristiche, non so, ormai non ci sono più le scene che c'erano un tempo, il cemento ha devastato quel po' di pietra che è rimasto, quindi è proprio un'altra cosa, ormai si è abituati a non usare più quel tipo di tecnica, si usano microfoni, ovviamente comunque l'impostazione vocale deve essere sempre giusta per quel genere di rappresentazione, quindi comunque bisogna avere la voce impostata, bella, forte, per far arrivare tutto quello che Euripide in qualche maniera vuol fare arrivare, ecco, della sua tragedia. Truccata però come una maschera greca, cioè che un po' richiama... No. No, anche perché comunque ormai è da anni e anni che le tragedie sono talmente grandi e vive e talmente contemporanee che non è necessario ricollocarle così filologicamente, tra l'altro anche senza nessun tipo di reale nozione. Vengono poste in situazioni sempre molto diverse per anno, per esempio noi quest'anno abbiamo una magnifica scenografia dell'architetto Massimiliano Fuxas, che ha inventato per Siracusa, questo spazio gigantesco, una sorta di cono d'acciaio che riflette una parte delle azioni che noi compiamo, in più riflette anche delle lettere greche che sono dipinte per terra, quindi è una scena senza tempo. Noi abbiamo dei vestiti che richiamano un po' i vestiti antichi, ma comunque non hanno assolutamente per forza bisogno di una collocazione, appunto di un discorso filologico, perché la tragedia, come insomma è ormai evidente, è talmente assoluta che vale comunque, non è un problema dover far finta di imitare quello che erano 2000 anni fa. Certo, all'Atene di più di 2000 anni fa. Elisabetta Pozzi, che cosa ti piace di Medea, che cosa detesti, qual è il momento in cui tu senti Medea vicino a te, quando tu sei in questo teatro greco di Siracusa la sera, e in quel momento sta recitando quel verso ed è quel verso che tocca magari il tuo animo e quindi anche quello degli spettatori. Beh, di Medea è chiaro che è difficile condividere le soluzioni, nel senso che è appunto, come dicevi tu prima, è una irriducibile che decide di compiere questa vendetta contro il marito Giasone, che l'ha appunto tradita. Il suo modo di vendicarsi è terribile, diventa una donna mostro, diventa la donna che appunto uccide i propri figli. Del resto, nella composizione dell'opera, Euripide è davvero riuscito a creare un personaggio che alla fine è curiosamente vittoriosa, in questo senso che non può che stare dalla parte di Medea, curiosamente. Quindi devi anche tu, come dice, riuscire a portare le ragioni di Medea fino in fondo, fartene carico totale di queste decisioni e capirla profondamente. Quindi in questo impegno io mi sono accorta di dover sfumare dentro di me, in quella parte un po' ferina, un po' bestiale che noi donne abbiamo, comunque dobbiamo renderci conto che le abbiamo, sono nostre. Il fatto che Medea, ripeto, sia una donna irriducibile non vuol dire che lei sia, come spesso si dice, la maga, la strega, non è affatto questo, lei è una donna estremamente sapiente, tradita, abbandonata, privata della dignità sociale, della dignità del suo stato sociale, ammessa in una terra dove lei non ha nessun tipo più di potere, ed è l'unico modo che ha per davvero far parlare di sé, farsi ricordare e riassumere la propria potenza, la propria bisogno di non essere schiacciata come donna, come madre, è quella di compiere questo atto. Quindi diciamo che pur non, ovviamente non condividendo come persona il personaggio, ci sono dei momenti di strazianti in cui io sento la disperazione di questo stato, di una donna straniera, guarda caso si tratta proprio di una straniera, di una portata in un mondo che non è il suo, e questo abbandono, questa totale mancanza di affetti intorno, questo sentirsi sola in assoluto in un deserto di affetti e di comprensione, ecco, questo fa sì che io riesca a condividere la sua disperazione. Questo è forse per quello che, ripeto, qui a Siracusa stiamo avendo, sia personalmente io ma tutta l'opera, davvero un successo che ci sta commuovendo, nel senso applausi a scena aperta, urla alla fine, applausi che durano 10 minuti, cioè qualcosa che va più in là del successo così, delle opere che spesso hanno qui a Siracusa. È diventato forse la gente comincia a sentire, no? a intuire cose ben più profonde di quanto noi ci possiamo immaginare. Forse stufa del mondo bidimensionale televisivo, ma no? Elisabetta, la regia di chi è? La regia è di Krzysztof Zanussi, che è un regista più che altro cinematografico polacco, che ha dato un segno, ha voluto proprio amplificare un po' questo carattere un po' ferino e tribale di Medea, anche se insomma non è che in scena io sono una non è che sono conciata come una donna delle tribù, intendiamoci. Anche una rom, diciamo, no. Diciamo che lui ha voluto enfatizzare un po' questa diversità di Medea, secondo me ha ragione. Chi interpreta Giasone? Allora, Giasone è Maurizio Donadoni. Siamo in scena fino al 20 giugno, noi poi a giorni alterni c'è un'altra tragedia, questa invece di che è l'Edipo a Colono, interpretato da Giorgio Albertazzi. Noi come Medea finiamo il 20 di giugno. E allora meditiamo su questa eroina di Euripide, ricordiamo, al Teatro Greco di Siracusa. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.